rabbia che pulsa dal plesso solare. Sono solo due dita e mezzo sotto il cuore, passione pura intatta come fare all'amore. Merda sale, non la puoi fermare, offusca la mente, poi non mi puoi fermare. Cresce, si espande come le onde del mare, sono tempeste. No, cico come un cazzo di tsunami, un pomeriggio di dicembre. Un grido in gola che vuole uscire, vuole uscire. Un cazzo di demone che non la smette di urlare. È una lotta per le strade, politici da isole, figi contro disperati armati dalle banlie di Parigi. Corpi morti nel Tamigi, siamo tutti pazzi come Hoffman in bici. Sono pezzi come in un frigo di scandici, che tanto va a finire nel sangue come scratch and itch. Sai cosa c'è? Quando ti prende schiaccia i centri nervosi e non passa. Chiedi perché la gente passa e non parla o sta zitto minaccia. Sai cosa c'è? Quando ti prende schiaccia i centri nervosi e non passa. Chiedi perché la gente passa e non parla o sta zitto minaccia. Le pulsazioni mi battono a 120, il sangue corre, non controllo lo scorrere degli eventi. La prossima mossa dettata dall'ira fa che non possa rompere ossa o lasciare per terra una macchia rossa. Dovrei avere self-control come Rafman. La merda ha superato ogni livello d'avanguardia. Rabbia, rabbia, saranno cronache nere non come a Narnia. C'è chi la sfoga spaccando ogni cosa, c'è chi la prende, la rende grande, la controlla e la usa. Io assieme a Zorba le fornisco una forma, la modello sul beat e la ripeto come la forma. Sai cosa c'è? Quando ti prende schiaccia i centri nervosi e non passa. Chiedi perché la gente pazza e non parla o sta zitto minaccia. Sai cosa c'è? Quando ti prende schiaccia i centri nervosi e non passa. Chiedi perché la gente pazza e non parla o sta zitto minaccia. C'è gente che è fuori, gente che va fuori e chi è tenuto fuori. Tanto la fine per tutti, una cazzo di lapide con accanto due fiori. Soldi neri postigli, perché i cassetti si sono rivelati troppo piccoli. Urla disperate come onde d'infrangere su isolati scogli. Cico, non ci resta che piangere come Troisi e Benigni. Sono cronache di strada assurde e violente come quelle di Riddick. Se questa è Matrix, le lette sono finiti e vinti. Fuochi fatti negli occhi, tra orecchini di Bulgari. Sono atti di vita spinti, schizzi di sangue su volti impassibili come sperma sulle tette di Brigitte Bulgari. Il finale non varia, sesso anale in avaria. La vita è un cazzo enorme che ti fotte da dietro come l'aizzo la diaria. Sai cosa c'è? Quando ti prende schiaccia i centri nervosi e non passa. Chiedi perché la gente pazza e non parla o sta zitto minaccia. Sai cosa c'è? Quando ti prende schiaccia i centri nervosi e non passa. Chiedi perché la gente pazza e non parla o sta zitto minaccia.